pronto? Questa è Radio 24, vero? Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è noia. Gioia. Quando sono sul mio taxi mi sembra di stare al bar. Una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar tutto il turno. Buonasera e buona padaglia a tutti. Beh, a parte che volevo dirti che comunque la Zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Amici di Scafati, piccolo paese, credo, in provincia di Salerno. Cari amici anziani di Scafati, aiutatemi a individuare questa signora. Questa signora 84enne. È una cosa seria, Parenzo, una cosa reale. Ah, ascolto. Una cosa concreta che tu ovviamente non sai. Non ho interrotto il flusso radiofonico, ma non... Che tu ovviamente non conosci. Una signora 84enne che ha chiesto il divorzio. E vabbè, questo è possibile anche a 84 anni. Io conosco persone che si sono separate a 70 anni, a 75 ma certo, anni. Ma se vive fino a 150, scusa. Beh no, adesso Ingrao, 150 no. Scusami, Ingrao è morto a 100 anni. Sì, vabbè, però quanto caso. Spazio c'è per una vita? Non è vero. Comunque è vero. Ci si può divorziare anche a 84 anni, ma la motivazione che ha dato questa signora, io spero che la notizia sia confermata, anzi sicuramente è confermata perché ne discutono già grandi avvocati del foro, grandi divorzisti, grandi matrimonialisti. Cosa dicono? Cosa dice questa signora? Mio marito non mi soddisfa sessualmente. Parenzo? Oh, lei è un grande. Amici di Scafati, a noi. Poi vi do le iniziali, ovviamente ci sono solo le iniziali di questi signori, l'iniziale di lui e l'iniziale di lei, Scafati. Giuseppe, Davide, vi voglio bene, Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Allora, sai che ieri è successo il pandemonio in Francia per quella roba dell'Air France, i dipendenti? Ho visto tutto, i manager assaliti, strappata la camicia, insomma una sorta di piccola ghigliottina. Vabbè, moderna. Dei coglioni, dai, diciamo la verità, degli imbecilli. Sì, una reazione eccessiva sicuramente. 2.900 persone licenziate, se la sono presa col direttore del personale. Se volete fare bingo non è che date la caccia al direttore del personale che non c'entra una mazza, quello è un esecutore, no? No, ma è stata una rabbia. Se avete coraggio, cari dipendenti dell'Air France, dirigetevi in massa presso i grandi manager dell'Air France, non ve la pigliate con il capo del personale, è come se i dipendenti del Sole 24 Ore, metti che ne licenziano, che ne so, 300, 400 eccetera eccetera, se le pigliano col povero capo del personale qui al terzo piano, non mi ricordo manco come si chiama. Beh, potrebbe essere quello che ne fa le spese, poverino, speriamo di no, perché se va a un'assemblea a giustificare... Al quarto piano, ma non ha senso, signor Lorenzi, no? Non so se sia il capo del personale di tutti, cioè uno prende d'assalto quello là, ma no, prendi d'assalto, no. Signor Squinzi, no, prendi d'assalto, signor Atreu. Nessuno. D'accordo. Se proprio devi prendere qualcuno d'assalto, se poi devi strappare la camicia. Beh, ti devi ho una bella occupazione di un giorno, ad esempio, due giorni ci starebbe. Lascia ad esempio. Perdere, però è il principio. No, io non toccherei nessuno. Il principio è prendere le fabbriche proprio, se mai occupato. Vabbè, tu sei questo un pazzo, sì. Tu sei un criminale. No, non le persone. Ancora sei rimasto al comunismo, a queste puttanate. Comunismo, qua. No, però c'è tanta povertà. Allora tanta io dico, se volete incassarvi, è inutile che ve la prendete con i pesci piccoli, con i capi. Possono essere anche stronzi i capi del personale, per carità, sicuramente. sicuramente, no. Ma sono degli esecutori. Sono degli esecutori. Beh, nel caso francese però c'era un'altra controproposta di cui tu non vuoi parlare. Ma sono i capi che decidono, quelli sono degli esecutori, sono il... No, ma hanno sbagliato gli piloti a non accettare la proposta facendo licenziare 2000. Ma chi se frega noi dei piloti della Air France, amico mio? Ma il tema è quello lì. Ma è la zanzara questa, non è Focus Economia. Ah, basta, è vero. E dai. Sei una zanzara. Ragazzi, ma spieghiamo bene il problema. Fermo lì, le chiacchiere stanno a zero. Le chiacchiere stanno a zero. Papa Francesco può fare tutti i proclami che volete, può rivoluzionare la Chiesa a parole. Poi che cosa succede? Spegni quella roba che c'hai, spegni quel telefonino di merda che c'hai, che ho sentito il rumore, quella cacca che c'hai dietro. Ah no, questo è quell'altro, ecco, quello WhatsApp. Che vuoi, spegni qualsiasi cosa, non ci rompere le scatole. Il allora, silenziatore. Che succede? Ecco, bravo, sì, così impari dopo vari anni. Sì, David? Sì. Dimmi. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Oh, bisogna dirlo all'amico che mi ha scritto il messaggio, questo no, manager. No, amico mio, è importante che tu chiudi il telefono e lo metti col silenziatore, cosa normale quando uno entra dentro lo studio radiofonico. Quando tu vai a condurre una trasmissione alla 7, che fai? Tieni acceso il telefono? No, mi è acceso il telefono? L'altra mattina mi è capitato di avere la suoneria del telefono accesa. Comunque, ragazzi, durante Omnibus, ma era silenziata, quindi non ha disturbato. È proprio rincoglionita forte lei, eh? Ma no, ma perché non gliene fotto un cazzo? La differenza è questa: quando fa le cose sue, tutto silenziato. Ho detto quando che mi è qui, capitato anche qui. Questo qui l'ho messo silenziato. Bene in casa, dice, ha ragione Giuseppe. Ma che cazzo vuole bene in casa? Ma vedi che se Giovanni, se mi scrivi il messaggio però mentre sono in onda, no, fa bene a scrivere, caro Benin Casa, sei tu che non devi lasciare acceso. Ma scrivi, ma cosa mi scrivi? Adesso la colpa è di Benin Casa, che ti ha mandato il messaggio. Benin Casa scrive perché sa che io alle volte posso dimenticare il cellulare. Giovanni Benin Casa, di la verità, ho ragione io o ha ragione Parenzo? Ma l'ha scritto, ha fatto benissimo a scrivere. Sta capra di Benin Casa, capra, cacca, Benin Casa. Benin Casa o Casa Monica? Benin Casa sarà. Allora, è uguale. Papa Francesco può fare tutti i proclami che volete, però poi spunta chi? Spunta un signore che si chiama Don Gino Flaim, un prete a Trento. L'aria che tira, programma della 7, va a fare un servizio. Grande programma. Oddio, che leccaculo. Sei veramente un leccaculo. Cioè, lo devo dire a voce alta. Sei un leccaculo assoluto. Bellissimo programma. Mamma mia, un fastidio. Il tuo leccaculismo è fastidioso qualche volta. Questo allora, Don Gino Flaim è un prete intervistato dall'aria che tira sulla 7. Esatto. Benissimo. Che cosa dice questo signore con le telecamere davanti sulla pedofilia. La colpa spesso è dei bambini che cercano affetto. A me prudono le mani, perché questo signore dovrebbe essere cacciato seduta stante dalla chiesa. Invece non succede sospeso. Nulla. Ma anche la sospensione. E sarà sospeso, mi auguro. Intanto se poi processato dal tribunale ecclesiastico. Vedremo quanto tempo ci metterà. Vedremo. Della pedofilia posso capirla, l'omosessualità non lo so, perché io ho fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco, e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa, e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma, e lo capisco questo. Cioè, la pedofilia la capisco, l'omosessualità no, che la cosa è la cosa più terribile che uno possa pensare, perché uno può pensare anche che i preti siano deboli, no? Ovviamente sono da condannare, ma addirittura dire che i bambini cercano affetto, io la pedofilia la capisco, invece l'altra no, perché è una malattia. No, io capisco quei preti che danno affetto ai bambini, cioè la giustifica in questo è ancora più grave, infatti. Senti questa roba qua, va accettato come un peccato la pedofilia. Signor Don Gino Flaim. Ecco, sarebbe bene andare a cercare questo signore qui, lo dico ai dipendenti di non so che cosa. Quelli della Air France, che gliene frega di questo qua? Ma andassero a cercare questo Quelli donne. Della Air France, che gliene frega di è questo bene, qua? È bene, hai ragione. Scusa. Cioè, che quindi praticamente sono un po' i bambini che... Buona parte, sì. Quindi le accuse sono ingiustificate verso la pedofilia? Scusa, un peccato. È come tutti i peccati, vanno accettati anche. Vanno sono accettati. Gli omosessuali invece sono malati. Sono malati. Cioè, i pedofili vanno accettati, gli omosessuali sono malati. Da questo, ma dove è spuntato fuori questo flame? Cioè, il bello è che secondo me, come questo, ce ne sono tanti altri, lo voglio dire. È pieno, secondo me, pieno di persone del genere. E per quanto riguarda l'omosessualità, invece, mi diceva? Che ci siano, non mi faccio meravigliare, perché la Chiesa è una comunità di peccatori. Sì. Per niente Gesù Cristo è morto per i peccati. Anche qui non so perché le malattie sono, vengono le malattie. Cioè, non l'omosessualità è una malattia? Penso di sì. Ah, un piccolo dubbio ce l'ha, penso di sì, penso di sì. Il Senato, amici miei, di fronte a queste cose, poi cosa volete che siano le polemiche sui Danna, Barani, gesti sessisti, le punizioni, poco, troppo, 5 giorni sono pochi, sono stati salvati forse anche dal Partito Democratico perché adesso sono amici di Verdini e dunque Verdini amico di Renzi, eccetera, eccetera. Agli italiani non gliene fotte nulla di questa cosa, niente. C'è il signor Danna però che dopo aver detto a noi ieri alla Zanzara che Grasso è chiacchiere distintivo, che lui mimava quando faceva, no? Suca, indicando la senatrice Lezzi. Stamattina che ha fatto? È andato alla trasmissione che si chiama Agorà. Ottima trasmissione. Vabbè, anche questa. Inutile stare a... Anche questa, inutile. Ottima trasmissione. Inutile, tanto tu leccaculo sei e leccaculo rimarrai. Cioè, no, non è che... ma non c'è niente da fare, così, per cui inutile ripetere le stesse cose. È talmente semplice che l'ho sempre detto. Allora, Danna... L'ho sempre detto. Ottima trasmissione anche Agorà. Sì. Danna interpreta quello che è successo in questo modo. Se la senatrice Lezzi indicava la pancia perché era incinta, io non potevo saperlo. Io non ho fatto altro che ripetere il gesto all'indirizzo della Lezzi. Punto. Il prete è stato sospeso comunque, mi indicano, ho perso l'ultima notizia, il prete è stato sospeso. Ma è una sospensione normale. Niente. Ma non sai mai niente, ma deve informati. Essere cacciato. Tutto il giorno lì a non fare un cazzo in quella radio, informati, te l'ho detto dall'inizio. Sì, sì, sì, non fai ridere tanto. Allora, la cosa fondamentale è un'altra, è la sospensione. È stato sospeso, sì, ma non conta niente, ma più di queste parole, che cosa deve dire per essere cacciato immediatamente? La procedura è questa. Vabbè, sarà traffico, la procedura. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova. Duro. La Zanzara. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Senti, io voglio chiedere agli ascoltatori se secondo loro è giusto che se un'azienda licenzia 2900 persone, i dipendenti assaltino, è uguale, non ce ne frega niente, il capo del personale o un grande manager, prendano da strappandogli la camicia. Prima però lo chiederei al signor, te lo ricordi quel sindacalista ex tale, signor Cremaschi? Signor, come no, Giorgio credo Cremaschi, che abbia fatto pochi giorni di lavoro nella sua vita, l'amico no, Cremaschi, sembra un sindacalista. Pronto? Cremaschi? Sì? Sono Cruciani, ciao. Ah, ciao, come stai? Bene, c'è anche Parenzo qui, Ciao. Salutamelo. Ciao, caro Papa, avete fatto arrabbiare persino il Papa, davvero, siete proprio due ragazzacci. Hai visto che succede in Francia dove i dipendenti di Air France... Ho visto. Prendono... Una meraviglia. Beh, sì, direi di sì. Ma com'è una meraviglia, scusa? Sì, assolutamente sì. Penso di sì, penso che tale, voglio dire che se la gente si arrabbia, voglio dire, forse le cose cominciano a andare, se arrabbia sul serio, forse le cose cominciano a andare meglio. Ma l'hanno ghigliottinato quasi, però. L'hanno ghigliottinato praticamente. Diciamo che la nostra civiltà deriva da questo. Cioè dalla ghigliottina, no, dici? Francese, beh, un pezzo, diciamo che la presa della Bastiglia la festeggiano ancora in Francia e quindi vuol dire che qualche segnale anche lì non era stata proprio però scusami, se una ditta vuole licenziare bisogna dare l'assalto ai capi. se una ditta vuole licenziare oggi in questa situazione così, bisogna capire che è un dramma e la gente reagisce, perché quando oggi uno che ha un lavoro dignitoso, che ha 45-50 anni, ha il mutuo, ha le rate dell'università da pagare, sì, e magari ha quelle dell'automobile eccetera, perde il posto di lavoro a 45-50 anni, finisce in mezzo a una strada e non ha nessuna possibilità di recuperare. Dunque, questo è un dramma sociale. Vabbè, ma questo è il capitalismo, l'economia di mercato, bellezza, amico mio. Cioè, non è che stiamo qui. Su questo siamo completamente d'accordo. Io sono contro il capitalismo, io lo odio il capitalismo. Odio il capitalismo. Quei lavoratori hanno però rifiutato i piloti di volare qualche ora in più, come avviene in tutta Europa. È vero, non solo io penso che non si deve lavorare di più, bisognerebbe lavorare di meno. Abbiamo in Europa 25 milioni di disoccupati. Se non si lavora di meno, lavorare tutti, assolutamente sì, è l'unico modo per affrontare la disoccupazione. Sì, e poi il comunismo quando? Il comunismo arriverà per forza, perché sennò noi finiamo come i dinosauri e quindi finiremo come un'umanità che si autodistrugge, perché questo mondo, il capitalismo, l'abbiamo visto. Ma scusa, ma hai visto che c'è quello là che è decrepito a Cuba e sta morendo pure l'ultimo o no? Cioè, sì, è finita quella roba lì, morta. Allora ti rispondo con una vecchia favola, di Bertolt Brecht, che raccontava dell'uomo del sarto di Ulm. Il sarto di Ulm era un pazzo che era andato in cima al campanile e si era messo le ali e aveva tentato di volare, si era sfracellato per terra. Da questa favola ci sono due morali: uno, che quello era un pazzo, l'ha fatto troppo presto, ha sbagliato tante cose, però che oggi l'uomo può volare. Cioè, tu dici il comunismo è stato realizzato male? Ah sì, certo, è stato realizzato male, presto forse, in maniera avventata, eccetera. Sicuramente ha fatto delle cose inaccettabili. È meglio del capitalismo. È l'unica soluzione. Noi non possiamo permetterci questo modello di sviluppo dell'umanità. Vabbè, senti, io voglio capire una cosa. Torniamo con i piedi per terra. Tu dici, meno male che quelli hanno dato l'assalto alla... danno il senso della gravità. E in Italia sarebbe da fare? Beh, io penso in alcune realtà. Tipo? Mi auguro che succeda. Facciamo una lista degli imprenditori, secondo te, dei capi azienda che sarebbero da inseguire. Chi sarebbe da inseguire, secondo te? La lista di quelli da inseguire. Beh, sì. Primo, nei top 3 ci metterei. Primo, Marchionne. Scontato. E non ho bisogno di spiegarlo. Secondo, ci metterei Tronchetti Provera, che è uno di quelli che più licenze più guadagna. Terzo, ci metterei Moretti. Quello lì, certo. Cioè, se facessero come hanno fatto i dipendenti della Air France, saresti contento? Strappargli la camicia. Mi basterebbe che ci fossero i loro lavoratori, a un certo punto, di fronte a tutte le cose che gli capitano, li tenessero un giorno chiusi dentro i loro stabilimenti e si vedesse fuori la rabbia della gente nei loro confronti. Questa non si può dire di chiudere i manager in uno sgabuzzino. Scusa, non possiamo, ma non si può dire una roba così della radio di Squinzi. Licenziano voi, a me non riguarda. E poi chiudiamo te in uno sgabuzzino. Scusami, a questo punto, se vi licenziano, capirete anche voi cosa vuol dire arrabbiarsi. Però scusa, tu strapperesti, fossi un dipendente, strapperesti della Fiat, strapperesti la camicia, il golf a Marchionne. Che se fossi un lavoratore, ripeto, di 45-50 anni, a cui gli capita di perdere tutto dalla sera alla mattina, sapendo che non troverà più niente, non so come reagirei. Potrei fare qualsiasi cosa oggi. Dunque tu giustifichi qualcuno che strappa il gol? Se qualcuno strappasse il golf a Marchionne, saresti... Se qualcuno che perde, anche di quelli che non ancora sono fuori di Pomigliano, perché ce ne sono ancora 2000 fuori, e che alcuni dei quali probabilmente non rientreranno mai, trovasse Marchionne e lo inseguisse, facesse, gli facesse passare, diciamo, qualche momento di paura, di terrore, di paura, penso che gli restituirebbe una piccola parte di quello che lui subisce tutti i giorni. Quelli di Nola che sono ancora lì in cassa integrazione, di cui se ne sono impiccati quattro, allora, impiccati quattro. Che è colpa di Marchione se sono impiccati quattro, dai, su. No, cioè, è colpa di Marchione, diciamo, qualche ruolo ce l'avrà, no? Come si dice, come diceva Stenius, non si regna innocentemente, ammetterete che non si fa l'amministratore delegato della Fiat innocentemente. Un po' di giacobinismo ci vuole in questa società. Vabbè, siamo alla follia. Ciao Giorgio, ciao ragazzi, sto apprezzando, vi sto apprezzando. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, ti prego. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Cornute che non sono out, questi sono dei cornuti. Ma quanto ha ragione Feltri, quanto ha ragione Vittorio Feltri quando dice che il prezzo che abbiamo pagato per liberare le due, come si chiamano, le due cooperatrici, Greta e Vanessa, per liberare quelle due signorine, supera le tariffe delle olgettine. Cioè, mentre l'attività delle olgettine... Non è paragonabile, però. Ma è paragonabile. Mentre è un paradosso. Fermo lì. Mentre l'attività delle olgettine non è costata nulla agli italiani, non è costato nulla agli italiani, queste hanno pesato per 11 milioni di euro sugli italiani, sul bilancio dei connazionali. Ma è come paragonare le patate con le mele. È più accettabile dare via la roba propria, ma che c'è da, cioè lì, la patonza, per guadagnare. Ma lì è un privato che ha pagato. Che non andare via dal proprio paese e gravare per 11 milioni sul bilancio dei connazionali. Dai, ha ragione Feltri, su. Cioè, è più accettabile l'olgettina, è più accettabile l'olgettina. Ma è una provocazione, ma non è sono due esempi, secondo me, che non sono paragonabili minimamente, non c'entra niente. Tu proprio sei allora hai ragione, ortodosso. Ma non è ortodosso, è una questione di logica, però. È come, ma non c'entra nulla, sono due cose completamente diverse. Ha pesato su chi? Alcune sono state pagate direttamente. No, quello è stato concepito come uno scandalo. Questo qua invece non viene concepito come uno scandalo. Ma dal punto di vista del... Ma tu lo sai quanti soldi abbiamo pagato, credo, per le rapiti in Italia? Cioè, lo Stato italiano, cioè noi, abbiamo pagato, credo, una cosa come quasi 100 milioni di euro per i rapiti. Vabbè, che c'entra? Lo Stato ha salvato delle persone in mano a nemica. Non se ne può più di pagare per gente. Ma tu sai, ad esempio, che lo Stato di Israele ritiene che salvare una sola vita 75 umana 75 milioni di euro per liberare 19 ostaggi italiani. Sai che nel lo 2003. Stato di Israele, ogni volta che c'è un soldato israeliano nelle mani, sì, nelle mani dei nemici, di Hamas o di quant'altro, sì, è disposto, sì, a pagare per salvare una vita umana. E allora? E quindi? Traffico. Allora? No, e allora? E allora, ma io siccome, perché non posso pensare che questo sia sbagliato? Nel Talmud, cioè, non posso scritto sbagliare chi sia salva sbagliato? Una vita umana. Vabbè. Salva il mondo intero? Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Tu sei per salvare la vita e dare i soldi all'ISIS? Ma io no, io no. All'ISIS intanto no. All'ISIS, ai terroristi, a chi se no? Spesso lo Stato di Israele fa scambi di prigionieri. Lascia perdere Israele. No, ma ti dico che il tema è salvare delle vite umane. Quindi uno Stato civile decide di salvare delle... Come noi vogliamo riportare in Italia i nostri Marò, ad esempio. I Marò. Che sì, noi vogliamo riportare... L'ha già detto ieri questo qua. E questo, cioè, siamo disposti a... E giustamente... Intanto al Parlamento europeo nuova comparsata, nuovo cinema di Gianluca Buonanno con la maglietta con una Angela Merkel con i baffetti tipo Hitler. Buonanno. Io sono un cliente Volkswagen, ho una Maggiolino turbo diesel che ho comprato dopo che le norme europee mi hanno costretto a prendere l'Euro 5 perché le altre inquinavano, quindi sono stato truffato. Allora io mi chiedo, ma se la signora Merkel, no? che comanda il mondo, la signora Merkel, ci deve spiegare un po' come funziona, perché ogni volta che c'è un problema la Merkel si muove. Allora ci devi dire che cosa è successo, se sapeva o non sapeva la signora Merkel di quello che capitava con la Volkswagen, lo sapeva o non lo sapeva? Poi a un certo punto scopre la giacca o non so che cos'era, il gilet, fa vedere questa maglietta in cui c'è il faccione della Merkel con i baffetti tipo Hitler, e gli dice, gli dicono, beh, la sua maglietta non è consona. Io penso che nella storia d'Europa, Monsieur quando Buonanno, si parla della Monsieur Buonanno, ci sono stati Monsieur momenti Buonanno, più cupi. Écoutez-moi un instant, je ne pense... Onorevole Buonanno, per favore, no... Penso che la maglietta che sta indossando non sia adatta a questo luogo. Deve fare attenzione a quello che fa. La sua maglietta non è consona a questa a quest'aula. Ma che era? Un capo della Gestapo? Chi era? Ma un capo? Mi pare un civilissimo. Gli hanno ricordato che in un'ala parlamentare non si fanno. Oh, un leader moderno. Finalmente puttanate. Un leader moderno come Landini, signor Landini, che dice che occupare le fabbriche e ogni tanto bisogna farlo per difendere il lavoro. Cioè, siamo rimasti ancora a questo livello, tu capisci? Signor Landini, parla di occupazione di fabbrica come una cosa normale. Come una cosa normale per difendere il lavoro. La minaccia di occupare le fabbriche, la FIOM la fa, lei la fa ancora oggi? Ma guardi, noi, beh, se dobbiamo difendere il lavoro, tante volte è successo, non era una minaccia, non è che adesso dalla sera alla mattina... Insomma, lei adesso vuole o no occupare le fabbriche? Perché ci piacciono. Noi per difendere il lavoro e per creare nuovi posti di lavoro siamo pronti ad utilizzare democraticamente, come abbiamo sempre dimostrato... Nuove notizie da Scafati. Il marito, ripeto, un uomo di 88 anni deve subire le angherie di una donna di 84, la moglie, la quale vuole il divorzio, credo che l'abbia anche ottenuto la separazione, naturalmente, addirittura con addebito di questo ex dirigente di banca di 88 anni, perché lui non riesce a soddisfarla sessualmente, limitandosi ad avere rapporti solo due volte al mese, ripeto l'età 88 e 84. Nuove notizie arrivano da Scafati. Il marito si è difeso sostenendo di essere pieno di acciacchi e con problemi al cuore, ma la moglie, incollerita, ha asserito che si trattava solo di una leggera tachicardia e che non doveva comportarsi in questo modo così drammatico. La signora poi ha chiesto al collega avvocato, un avvocato, di imporre al marito di assumere Viagra. Cioè, capito? La signora ha chiesto di assumere Viagra. Ma il giudice cosa ha detto in tutto questo? Ma non lo so. Questo è importante, perché vedremo. Se quello ha esibito le cose mediche, che poverino non può, rischia la vita. Ma... Però il marito si è opposto all'assunzione della cosiddetta... Ma i giudici ti obbligano a prendere Viagra? Perché no, infatti. Il marito si è opposto all'assunzione della cosiddetta pillola blu. Ha fatto bene. Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. Allora, ragazzi, andiamo a Milano. Nicola, 800 24 00 24. Nicola, vai. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi. Buonasera, Parelli. Buonasera. Stavo litigando con mia moglie. Adesso ero un po' distratto. Perché stavi litigando con tua moglie, scusami? È perché ha detto che sono arrivato tardi. In che senso? Nel senso che dovevamo fare una cosa, no? Assieme. Sì. E nello specifico era una denuncia perché c'erano già i ladri in casa, no? Sì, sì. E io sono arrivato, siccome le avevo chiamato prima, ho detto, in ritardo di 5-10 minuti. Sì. Cioè, sei arrivato in ritardo per colpa della zanzara, per sentire la zanzara, e dunque? Vabbè, è andato a fanculo. Scusami. No. Per colpa nostra, sei arrivato in ritardo, e tua moglie cosa ti ha detto? No, non sono arrivato per colpa vostra, in parte. Mi sta facendo. Passamelo un attimo, passamelo un attimo, un secondo. Scusa. Non so se vuole parlare. No, no, parla, non ti preoccupare. Dire che vuole Cruciani. Quanti anni ha la signora? È una ragazza, 40 anni. Dopo sta chiacchierata arriva il divorzio direttamente. Non vuole parlare. No, passamela assolutamente. Passamela. Non vuole passare. No, passamela, devo dire. A rischio il divorzio qui. Amico mio, dai, passamela un secondo, dai, così risolviamo la questione. No, un secondo, dai Nicola, un secondo, su. Dai. Ma un secondo, perché no, voglio farle capire perché sei arrivato in ritardo, di non essere arrabbiata. Signora, no. Come si chiama? Come si chiama, Nicola? Si chiama Genevieve. Genevieve, ma che è francese? No, io sto nome qua. Dai, vabbè, no. Ma che è? Mica un mistero, che siete? Mica siete famosi, dai, Nicola. No, si chiama Cesara, dai. Cesara, la signora Cesara, nome normale no, Cesara. Vabbè, per carità, ognuno si può chiamare come vuole. Puoi parlare? No. No, non vuole parlare. Cesare, perché sei arrabbiato? Facciamo le domande per interposta persona. C'ha ragione. Ma stai zitto tu. Chiama Cesare un attimo. Perché è arrabbiata, Cesare? È arrabbiato perché ho fatto un po' tardi. Ma fammelo dire da lei. Fammelo dire. Portagli il telefono vicino. Da, parla. Cesare. Cesare. Cesare. Signora. Cesare. Ma mi sta chiamando, scusa. Rispondi. È una questione di educazione pure, no? Cesare. Arrabbiato, signora Cesare, lasci stare questi due, parli con me, signora Cesare. Non vuole parlare, dai. Io la capisco, signora, quando si arrabbia così. No. Vabbè, Nicola, che mi volevi dire? Vuole, che mi volevi dire? Guarda, argomenti stasera ne avete, cioè, sono vabbè, però vai con uno, dai, vai con uno. Allora, guarda, il discorso dei preti, perché c'era anche quello di ieri sera. Sì, che è stato solamente, gli hanno revocato gli incarichi, non è stato per niente sospeso. Hanno revocato gli incarichi. Allora, adesso ci sarà tutto gli incarichi. Il tribunale ecclesiastico. Sì, con i soliti tempi, tempi. Sentire, guarda, sentire le parole di quello là mi veniva da vomitare. Di quello lì che bisognerebbe farlo Flamberi, come si chiama lui, no? Sì, si chiama... Sì. Si chiama, boh, non mi ricordo, sì, si chiama Don Gino Flaim, sì. Flaim, bisognerebbe farlo Flaim. Cioè farlo come? Bruciarlo? Bruciarlo, perché uno che dice una roba del genere proprio non è insensibile. Per questo io sostengo che c'è tanta gente che non capisce un cazzo. Cioè? Quando tu dici che Parenzo non capisce un cazzo su questa cosa qua, hai ragione. Perché? Perché? Perché mica possiamo... di evitare questa evidenza qua. C'è un'evidenza che ma mica l'ho difeso io. Ma che cosa? Qual è l'evidenza? Scusami. L'evidenza è che nella chiesa ci sono preti omosessuali. Sì. Preti eterosessuali. Sì. E le percentuali ci sono, perché anche ci sono. Vabbè, allora? No. Allora la chiesa deve cambiare, cioè è una cosa inevitabile, ma soprattutto per una questione la più grave, no? Deve cambiare per la pedofilia. Perché questa qua è una cosa che bisogna combattere. Vabbè, ma questo lo sappiamo, dai Nicola, non dire bagianate, non dire banalità, dai, fermo lì e torna alla tua cosa, come si chiama, da Cesare, va, ciao. Pubblicità, a voi! La Zanzara. Let's go! Anch'io sono una congelatrice di gas. Siamo al top. Ma siamo circondati dai congelatori dei gatti. No! Io Antonio volevo soltanto sentire dalla sua voce se questa si è pronunciato veramente quella frase. Mai, Santo Padre, non l'ho detta, non l'ho mai pensata. Nel mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere da lì? Ma che sono solo? Perché la puttana è andata a fanculo? No, Emilio, scusa, ma perché si è arrabbiato con loro? Rotti coglioni! Siete delle merde! Lo dico in toscano, sei imbucato. E certo che sei imbucato. Il Papa era furibondo. Posso immaginare? Sei un terrorista radiofonico. È una verità. Questa è la Zanzara 800240024. Giustamente ci si incazza, le associazioni, poi io le associazioni non le sopporto, per carità, sempre matrimonio gay, sempre adozione gay, viva, forza, avanti. Però non sopporto proprio le associazioni, perché diventano spesso ci fanno due palle così i comunicati, se le cose. Se non ci fossero quelle, però non ma ci no, sarebbero. Ma in generale dicono le i associazioni diritti, gay, sì, diritti. Allora, ieri Vespa, cosa è successo in concreto? È insofferente a tutto. Allora, cosa è successo di concreto? Che ieri Vespa, durante Porta a Porta, ha presentato la vicenda del prete, quello che si è dichiarato gay, ha dichiarato di essere con un compagno, dice che la chiesa deve cambiare, eccetera, eccetera, con una scritta: la lobby gay all'attacco di Francesco. Io vorrei dire due cose al signor Bruno Vespa. Primo, la lobby gay non esiste. Esistono delle persone che vogliono il matrimonio, alcuni vogliono l'adozione, cioè, ma la lobby gay, insomma, in Italia non mi sembra che abbia avuto, tra l'altro, grande peso questa lobby gay, altrimenti già ci sarebbe stato un punto di domanda magari no, nel titolo. No, la lobby gay all'attacco di Francesco. Punto esclamativo. No, nemmeno. Così, come dato di fatto, cioè, tutta questa vicenda del prete che ha confessato la sua omosessualità e ha confessato di avere un compagno, è presentata così: la lobby gay all'attacco di Francesco. Ma Ravenna, vai, 800 24 00 24. Gianni, vai. Pronto? Dimmi Gianni, dimmi. Primo, ciao Crotani, primo ho sentito il signor Cremacchi, no? A parlare, sindacalista, a parlare del comunismo, della gente che è licenziata, che lui attaccherebbe Marchionne e tutte queste cose. Io gli voglio chiedere, ma se finisce il capitalismo e torna il comunismo, poi gli operai della Ferrari, della Maserati, di Gucci, poi possiamo licenziarli, si mantiene lui, oppure vorrei che mi spiegasse come devono fare poi quegli operai lì, non lo so. Ma Gianni, guarda, sono follie, possono piacere solo a Parenzo, queste cose qui, gli scioperi, i sindacati. No, sono cose per lui, non mettere tutto nello stesso piano perché non c'entra niente. Per lui vorrebbe che tornasse il comunismo, mi pare. No, che io non ho mai chiaro, difeso l'aggressione a quei manager, Crotani, mai. Crotani, scusa, ha detto che voleva il comunismo, che tornasse il comunismo. Ma sì, vabbè, ma ognuno può volere quello che vuole. Cioè. No, ma... Forse si è dimenticato che il comunismo ha fatto più morti di Napoleone e Hitler messi insieme, più anche il fascismo. Non lo dico a Parenzo, che ancora un po' difende. Io contato, ma non difendo il comunismo, morti, io quello sovietico, mai morti, difeso. Ho letto dei libri di storia, cioè, i morti del comunismo sono di più di Napoleone, che ha messo a terra il fuoco. Ma lo volete capire che oggi Hitler la gente... Hitler è il fascismo, cioè li ha superati. Sì, ma lo volete capire che oggi la gente di tutte queste discussioni sul comunismo, sul fascismo, sulla destra. Io sono figlio di due operai e non faccio l'operaio. Non frega nulla a nessuno, niente. Io vorrei capire quando la Chiesa oggi caccia a pedate nel sedere quel prete che ha detto quelle frasi ignobili sulla pedofilia. Fra poco le faccio riascoltare. Che sono delle frasi ignobili sulla pedofilia. Allora spero che per una volta la Chiesa, il signor Papa Francesco, dopo che ha detto quelle cose sui gay, dopo che pare che sia aperto a parole, eccetera, prenda a calci nel sedere quel prete e lo cacci fuori. Cioè, questo prete non deve più avere lo stipendio della Chiesa. Uno che dice quelle parole, che fra poco farò riascoltare, è una vergogna assoluta. Però assoluta. Ho sentito da un telegiornale che l'hanno già sospeso. Ma no, gli hanno revocato gli incarichi, che è una robetta così. Dai, è il primo provvedimento che uno può fare. Leggere, vabbè, dai, forza, Franco. Va bene, comunque, niente. Ciao. Franco, ciao. Torino, vai, Franco. Pronto? Dimmi Franco, dimmi. Finalmente, dopo un'ora, ragazzi, mi avete smontato. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Senti, se vuoi intervenire, aspetti, altrimenti spegni. Lo so, però, vabbè, ok. Vabbè, Franco, vai, dimmi, che mi devi raccontare? Allora, dimmi. Ti dico una cosa, io sono stato 7 anni in seminario. Sì. Ieri ho sentito un sacco di cose, mi sono anche divertito, eccetera, eccetera. Però, voglio dire... Sì, vai, dimmi, altro, dimmi. C'è un altro problema. Qual è il problema? I ragazzi, non è che il prete sceglie. Il prete viene fatto quando si prende un ragazzo di 11 anni, un bambino, si tiene in seminario 12 anni, dopodiché a 24 anni esce, e secondo te quel prete lì è sicuro di aver fatto la scelta giusta? Cioè, secondo te non è stato plagiato? Ma non lo so, alcuni casi sono plagiati, altri no. No, ma... guarda, io ti dico una cosa. Sì, ragazzi, ma il tema di oggi è un altro, Il tema di oggi è la Chiesa che cosa deve fare con questo signore qua? Lo deve cacciare subito o no? Lo deve cacciare immediatamente, perché non è che può bastare la sospensione dagli incarichi di uno che dice una cosa del genere. Dai, su, adesso lo faccio riascoltare, è tremendo. Ragazzi, oggi i seminari oggi non ce ne frega niente. Il tema nella Chiesa... Ma non te ne frega niente, i preti che sono pedofili, da dove credi che vengono fuori? Scusa, eh? Vabbè, ma è normale che sia. Fatemela dire anche tu, scusa, tra te, Sgarbi, tutte queste cose, state dicendo delle cazzate. Cioè, Sgarbi, parli di figlia e parli di arte, e allora va bene, si capisce qualcosa. Io sono stato 7 anni in seminario. E che è successo? In sette anni... benissimo come vengono trattati i seminari. No, piano con Cristo. So. Che succede in seminario? Che succede? Succede che al mattino alle 5:30 ti alzi, hai la messa, vai avanti, completi tutto il giorno, alla fine... Guarda, non c'è bisogno di... No, ma che ti è successo? Che ti è successo? Dimmi. Non mi è successo niente di particolare. Io però a 60 anni mi sono accorto che ho sbagliato un matrimonio, perché sono uscito dopo 7 anni di seminario, con delle conseguenze, ma non perché ho avuto delle avance di pedofilia o cose del genere. Di che cosa, allora? Ma perché tu sei mentalmente plagiato, tu hai dei sensi di colpa... verso la donna, è così. Peccato. Allora ti scusami, dimmi, però breve, vai. Breve, cazzo. Ti dico una cosa, Manzoni, se ci capiva qualcosa, allora aspetta quello che scriveva Manzoni. Dimmi, te lo sei preparato, dimmi. No, me lo sono preparato, questa cosa che l'ho scritto a un tribunale. Presumo, perché ho chiesto anche l'annullamento che lavoramente non mi hanno dato, perché questo l'ho per Vai, Franco, vai. Allora, Dice Manzoni. Dice Manzoni. La religione cristiana piega l'animo. Sì. Piega sì. L'animo. A proposito della Monaca di Monza. Vai, vai. Vabbè, dai. Della Monaca di Monza. Allora, sì, la Monaca di Monza. La religione piega l'animo, poi? Piega l'animo ad abbracciare con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, tutte le gioie della vocazione. Col cavolo, poi vengono fuori i preti pedofili, perché la gente... Ma sei della mia, io penso che la religione sia la causa di tantissimi mali, ma a grande richiesta torna la rubrica, una delle rubriche preferite, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Allora, caro Parenzo, il peggio di Radio Padania, che non chiuderà per il momento Radio Padania, ma prosegue la nostra rubrica. E andiamo con Barin, conduttore di Radio Padania. Cosa dice Barin a proposito delle due ragazze, 11 milioni forse di riscatto pagate, eccetera, eccetera? Vai. Vai vedere quanto è bella la tua terra. E il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Varin, 11 milioni di euro per le due fighettine, così le chiama, fighettine. Servi di Roma fuori. 11 milioni di euro, vi ricordate le due ragazzine fighettine che sono andate a divertirsi con i siriani? Chiaramente con i terroristi dell'ISIS. Servi di Roma fuori. Per Vanessa e Greta 11 milioni. Lo dice il tribunale islamico, uno dice, beh, insomma, ma c'è da fidarsi? Oddio, è l'unica fonte che abbiamo, perché Gentiloni è come le tre scimmiette, no? Io non vedo, non sento e non parlo. Fai sentire quanto ma abbiamo con noi, cambiamo completamente scenario, uno dei, come dire, non so come, nemmeno come definirlo, cioè, un amico della radio, so, troppo ecco. Poco, dai, Claudio Cecchetto, ciao a tutti. Allora, perché ho invitato? Ho paura di aver sbagliato stanza prima, perché ho sentito discorsi, pedofilia, che, preti, sì, così, ho detto, boh, mi avevi chiamato per il libro, e avevo detto, ma forse probabilmente, noi passiamo così, lo sai, ok. Sì, sì, beh, ti sento, ogni tanto ti sento quando posso. Allora, Claudio Cecchetto, perché l'ho chiamato? Dici, tu lo conosci Cecchetto oppure sei ignorante? Ma la mia infanzia è la stata tua infanzia, perché è morto, segnata da Claudio Cecchetto. È vivo, ciao, no, ciao. Perché, ma lo so, ma la mia infanzia, avendo io 39 anni ed essendo cresciuto negli anni 80, durante la mia giovinezza, Claudio Cecchetto è stato festival. Come no? Non sai niente. No, è giusto, per adesso è giusto. Ma lui deve dire, capisci, lui non esiste se non dice, vabbè, a prescindere che sbaglia, capito? Questo allora la cosa è questa, malato, io con un certo, capito, ritardo, sì, durante quest'estate ho letto tutto il libro di Claudio. Ma non hai letto niente. No, leggo pochissimo, però alcune cose le leggo. Sì. Claudio Cecchetti in diretta, sì, gioca giocatore della mia vita, che è uscito un po' di tempo fa in realtà. Ma chi se ne frega. Infatti, poi spero che venda anche il prossimo anno, insomma, sempre, comunque, sempre. Magari faremo una seconda edizione, una terza. È come un disco, no? Cioè un backup, uno lo prende, se hai voglia, the best of, te lo prendi anche tra un paio d'anni. Supermarchetta andrebbe allegata la domenica, io credo, col Sole 24 Ore ad esempio. Cosa, no, questo dici? Libro, il libro dice, la marchetta, falla completa, scusa, no, che di allegato, tu l'hai invitato, andrebbe allegato al Sole 24 Ore, ma tutto andrebbe allegato al Sole 24 domenica, Ore la domenica, anche le nostre cassette con le cose porno, con le cose di sesso, tutto quello. Non so se la domenica è il contesto giusto. Allora io voglio capire una cosa, ho letto tutto questo libro con grande interesse, però sei troppo buono, Claudio, com'è possibile questa cosa? Cioè, allora sei buono davvero o sei un po' stronzo? Perché molti ti dipingono come, insomma, anche come uno stronzo. Ma guarda, io penso che la gente non ha, di cattiveria in giro ce ne sia abbastanza, per cui voler aggiungere altra cattiveria, no, parliamo di cose belle, cioè io personalmente non volevo essere cattivo. Ma insomma, allora, se essere cattivo vuol dire lamentarsi di qualcosa, ti pare che per tutto quello che mi è successo io debba lamentarmi di qualche cosa? Ma no, io devo ringraziare veramente, chissà, tutti devo ringraziare. Perché sei felice di quello che hai fatto? No, cioè, ma cavolo, no, e di quello che farai, perché mica è finita. No, cioè, infatti. Quanti anni hai, scusa, che sembri sempre un ragazzino? Adesso c'è la pelle un po' rovinata rispetto a alcune foto. Beh, eccetera. chiaro, anche perché lì c'è Photoshop che va Photoshop a mille. Ma no, sono. Quanti anni hai? 60? 63. 63 anni, sì. Beh, sei poco più vecchio di Cruciani, non è che no, c'è molta differenza. No, io ne ho 49, cioè ne ho 49. 50, sono 50, sono cresciuto tardi ormai. Rispetto a Cecchetto, che all'età, quando io ne avevo 25 ed ero un cazzone, già era... No, tutti pensano, però io ho cominciato tardi, perché io ho cominciato praticamente in Rai Sanremo, avevo 29 anni. Quindi, però una volta, 29 anni era proprio essere il più giovane presentatore esatto. della TV. Adesso invece puoi io andare 29 in onda. Anni, manco sapevo che cazzo fare, capito? Io ho scoperto... Ma io lo facevo, ma non sapevo che cosa stavo facendo. Allora, 30 cosa, secondi cosa e facessi, torniamo. Capito? 30 secondi. Ottima trasmissione, sempre la mia. La Zanzara. 1, 2, 3, 4. Questa gioca giù, eh. Ma va? Eh sì, vabbè, ora l'abbiamo messo, che devi fare? No, poi, no, poi per concludere il discorso sulla cattiveria devo dire che in effetti se tu sei cattivo ti ricordano, parlano tutti di te se sei cattivo, vero, no? Ecco, però dopo due giorni ti evitano. Cioè se racconti qualcosa di cattivo, perché in realtà tu dopo due giorni ti evitano però perché hanno paura di te, che tu dica qualche cattiveria su di loro. È vero, però ogni tanto bisogna anche tirare fuori qualche sassolino dalla scarpa, eh? Bisogna tirarselo fuori. Per esempio tu hai lanciato un sacco di gente, ma da quanti sei stato tradito? Quanti sono riconoscenti nei tuoi confronti? Tutti, perché guarda, se hai letto il libro allora non certo hai letto, non letto. Sei arrivato fino alla fine. No, l'ho letto, so, fine, è troppo buono il libro, no, è troppo scusa, buono. Ma alla fine sto parlando del mio compleanno, dei miei 60 anni, che mi hanno fatto una sorpresa, c'è mia moglie Mapi che ha organizzato tutto, ma e sono arrivati Lorenzo, che meraviglia, Jerry, Max Pezzali, insomma... che donna che... stupenda, cioè ti ha organizzato la festa di compleanno la moglie? Sì, a sorpresa. Ma che meraviglia, vedi, queste sono grandi cose. No, io pensavo di andare in pizzeria, invece mi sono trovato in paradiso. Ma questo è normale, la festa sorpresa. Adesso non è che ha fatto niente di particolare qui davanti a me, ma non ha fatto niente di speciale. Organizzare una festa sorpresa con loro, cioè uno di Roma, con loro, sì, certo, l'organizzazione pazzesca. Cioè, organizzazione pazzesca. Sì, però non è che in queste cose, possibile che non ti sei mai sentito tradito da qualcuno che è stato proprio irriconoscente nei tuoi confronti. Ma noi siamo qua a fare un po' di stronzi, sì, è normale. Ma io penso proprio di no. E invece sono anche perché tu devi pensare che io ho prodotto artisti, e gli artisti sono single, e gli artisti sono destinati comunque ad andare per la loro strada. È un po' come se tu ti sentissi tradito dai tuoi figli perché lasciano casa e vanno a fare la loro vita. Cioè l'importante è che poi ci si senta, ci si parli, e quando hai bisogno puoi chiamarli. Senti, facciamo una domanda un po' di attualità a Cecchetto, che è questa. Si parla di... Secondo me è renziano Cecchetto, ad esempio. Può essere. Non credo se ne fotte della politica. Sì, abbastanza. Pensi che siano tutti dei cialtroni alla fine, o no? No, io l'ho detto una volta, però non so se andava bene così, ma l'hanno anche scritto, che io sono sempre all'opposizione. E bisogna essere sempre all'opposizione. Uno fa radio, secondo me, adesso parliamo della radio perché siamo in radio, deve essere sempre all'opposizione, no, deve essere sempre contro. Sì, ma il mio ragionamento è perché purtroppo le maggioranze sono fatte magari dal 55% e nessuno pensa all'altro 45%. Ecco, io sto con l'altro 45%. Ma Renzi, ti piace o no? Beh, insomma, meno male, uno giovane. Gli piace. Cioè, no, insomma, va bene. Adesso vediamo quello che per succede. Ora va bene. Però per ora va bene. Ce l'hai votato, insomma. O sei uno di quelli che non vota mai. Cioè, non vado mai. Perché è stato votato per essere lì. No, l'hai votato all'Europa. Questo è vero. Ed è uno dei motivi per cui lo attacchiamo spesso anche noi. Lui attacca, per esempio, il sindaco Marino. O a Renzi sta sulle palle il sindaco Marino, che invece è stato eletto dai romani. Invece lui non è stato eletto da nessuno. Ma lo voteresti? Non lo sai, vediamo. Comunque Marino è un fenomeno, cioè è una macchietta. Ci dà da campare ogni giorno. È fortissimo perché se ne frega di tutti. Cioè. Si sembra impermeabile, gli scivola tutto addosso. Poi adesso riparte per l'America. Sei un colpetto, abbiamo cercato di darglielo pure noi con lo scherzo che abbiamo fatto. A proposito, gli scherzi telefonici ti piacciono o sono roba vecchia secondo te? Ma gli scherzi telefonici, cioè io per esempio non li ho mai fatti fare nelle mie radio. Sì, cioè non ce lo faresti fare se tu fossi il direttore di una radio? No, a te te lo faccio fare. fare, perché se no non lavori da me, e tu sei uno importante, uno forte, capito? Quindi ti si permette un po'. Cioè, perché non l'hai mai fatti fare? Perché c'è, cioè, un po' mi vergogno nei confronti delle persone. Sì, mi vergogno a mettere in imbarazzo. Vedi, è buono alla fine, non è cattivo, cioè, è una bravissima persona. È buono, cioè, però qualche cosa di cattiveria ce l'hai, la devo tirare fuori per forza. Cioè, perché qualcuno ci vuole mettere la sbarra. Parenzo, tu non lo sai. Queste cose burocratiche vecchie che sono ordine dei giornalisti, associazioni delle stampe. È giusto che loro facciano il loro mestiere, visto che siamo iscritti. Mi fai veramente cadere le braccia, tu. Cioè, invece di partire lancia in resta contro questi burocrati, sono sempre esistiti, certo, e esisteranno sempre. Ma è giusto che io sostengo questo, che siccome esiste l'ordine e noi, io almeno, anche tu credo, siamo iscritti all'ordine, è giusto che l'ordine faccia quel che deve fare. Noi ci difenderemo e diremo che anche e questo mi sembra normale, però. Sei troppo cecchettiano, cioè sei troppo razionale. No, ma è una cosa talmente oggettiva che non è neanche da discutere. Ma il mondo è bello perché esistono quelli che fanno gli scherzi e quelli che non li fanno. Cioè, non è che ci sia proprio un certo, però esistono da quando esiste la radio, e se qualcuno ci vuole impedire mi batterò fino in fondo. Generalmente gli scherzi vengono fatti delle persone in difficoltà, quindi insomma è infatti, noi facciamo, infatti noi li facciamo ai potenti, cioè farlo ai potenti. Quello è diverso, cioè diciamo che magari alcuni scherzi se li meritano. Cos'è che senti alla radio oggi? Lascia perdere queste trasmissioni, che ogni tanto hai detto che la senti, ma la cosa che senti di più, se devi accendere qualcosa, cosa accendi? DJ o no? Ma accendo, giro, mi piace girare. Il problema mio è che, sai, essendo nato editore radiofonico, disc jockey, editore radiofonico, giro spesso perché c'ho sempre qualcosa da dire sulla cosa che sento. Quindi sono un po' un criticone. È ecumenico, ecumenico. Quanto è ecumenico? Cosa? Qual è la cazzata più grande che hai fatto nella tua vita? Professionale, naturalmente. Una volta prendo la radio alle 7 di mattina, bisognava scaldare il trasmettitore, quindi sono arrivato un po' prima, mi sono messo in postazione e ho raccontato la mia avventura notturna a un mio amico che era lì. Era tutto aperto. Ho sentito una cosa fantastica, non è cazzata questa mia. Compreso la persona che avevo appena lasciato, perché gli avevo detto guarda, ascoltami che ti faccio una bella dedica. Io sarei morto. Ma è una cosa fantastica. Vabbè, dai, pubblicità per un attimo, poi torniamo, dai. Ottima trasmissione, sempre la visione. La Zanzara. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Prima di riprendere con Claudio Cecchetto, che è qui nei nostri studi oggi, perché io dopo tanto tempo ho letto il suo libro e l'ho finito, in cui si parla di tutti i personaggi, storia della radio, non solo, della televisione italiana, del costume, eccetera, eccetera. Il personaggio del giorno è questo prete qui. Questo prete di cui noi abbiamo anche il numero, abbiamo anche il numero di telefono, che manca ancora un'ora alla fine della trasmissione, magari becchiamo al volo, eccetera, eccetera. Si chiama Don Gino Flaim. Prima Cecchetto era curioso, siccome non ha letto niente oggi, perché non legge niente, perché non è come è un nome noi. D'arte. Non è come noi che deve leggere le cose ogni giorno. Flaim. È un nome d'arte. No, sembra un nome d'arte, vero? Don Gino Fly. Don Gino Fly. Invece uno che dice: l'ultimo LP di Don Gino Fly. Esatto, l'ultimo LP, lanciamolo, in cui dice che la pedofilia è accettabile. La pedofilia, no, vabbè, posso capire, non mica perché l'ha detto lui, qualsiasi. Aspetta. Perché io ho fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco, e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto, perché non ce l'hanno in casa. E magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma. E lo capisco questo. Ma che capisci? Che capisci? Mamma. Cosa capisci, Flaim? Io non capisco cosa aspetta. È stato non sospeso, hanno revocato semplicemente gli incarichi a questo tizio. Ma dopo questa cosa qua che bisogna fare? Poi dice la pedofilia è un peccato e va accettata come peccato. Cioè, che quindi praticamente sono un po' i bambini che... Buona parte, sì. Quindi le accuse sono ingiustificate verso la pedofilia? Scusa, un peccato, e come tutti i peccati vanno accettati anche. Abbiamo sentito l'LP di Don Gino Fly. A me sembra anche mezzo ubriaco. No, ma a parte che noi abbastanza. In questo momento stiamo focalizzando l'attenzione su queste parole di questo signore qua, che non conosciamo, che è uno qualsiasi. Cioè, anzi, direi, come in tutte le cose, c'è anche il diavolo. La dimostrazione che c'è anche il diavolo. Sì, c'è il diavolo, però quando si parla di pedofilia, sai. Il diavolo che cosa direbbe? Direbbe quelle cose lì. È pazzesco. Tu sai, uno può dire tutto quello che vuoi, cioè che i gay sono malati, e lui lo dice pure, tra l'altro, perché lui dice giustifica la pedofilia, ma non l'omosessuale. omosessualità, però quando si parla di pedofilia di bambini, sì, poi per carità è vero, nella prova dell'esistenza del diavolo. Sì, però bisognerebbe anche isolare certe persone, basta, e non dargli poi questo palcoscenico. In questo momento tu gli stai dando un grande palcoscenico. Allora, Claudio Cicchetto vuole eliminare gli scherzi radiofonici, non mandare in onda i mostri pazzeschi. Ma che sì, perché è uno. Tiriamo giù la Claire, è un cretino. Non c'è dubbio. Senti, ma io sono amico di Marco Baldini, no? Secondo te, che cosa è successo? Finge, come dicono alcuni, sono vere le cose che dice sui suoi problemi? Ha rimproverato a Fiorello di non averlo aiutato, poi adesso ha rifatto pace. No, eccetera, non ha mai rimproverato Fiorello. Tu sei proprio un giornalista, giustamente. Vai a leggere tra le righe. Non l'ha mai rimproverato. Sì. Non l'ha mai rimproverato perché, insomma, io conosco la vicenda molto bene. La coppia l'ho formata io, quindi li conosco bene. E Fiorello è sempre stato affezionato a Marco. Però è chiaro che se poi Marco un giorno decide di non venire più in trasmissione, non è colpa di Fiorello. E cosa è successo secondo te, Marco? Non lo so, avrà avuto i suoi problemi, perché insomma Marco è abbastanza è abbastanza strano. Tu ci credi a questa storia dei debiti che ha, eccetera eccetera? Ma io ci credo, come tutte le cose, magari è un pochettino esagerata per far spettacolo, no? Capito? Però sì ci credo, perché poi quando... Cioè tutti questi problemi che gli impediscono di lavorare, che è un po' contraddittorio, diciamo, rispetto al fatto che uno ha bisogno di soldi, No, sì, ti impediscono di lavorare, perché se hai bisogno di 100 e il lavoro che ti offrono è 10, sai che non risolvi il problema. È per quello che è un problema. Perché lui ha bisogno di 100 e quello che gli puoi offrire, anche se lui è bravissimo, è 10. Ma questa coppia si riformerà secondo te o è finita? Ma guarda, mai dire mai. Cioè, io so che Fiorello è buono, è ancora più buono di me. Guarda, Fiorello è ancora più buono di me. Sicuramente, se tocca certi tasti, molto probabilmente Fiorello poi dopo. È un po' dura adesso. È un po' dura, però. Non si riformerà, dai, diciamo la verità. È un po' dura, però. Una Fiorello. Dalla. No, perché conosco Fiorello. È un buono. Lo aiuterà ancora. Se avesse la possibilità, sicuramente, però non come pensano tutti, dandogli del denaro, ma lo aiuterebbe magari reinserendolo nel mondo del lavoro. Senti, ma che cos'è che vuoi fare ancora che non hai fatto? Cioè, oppure rifare una cosa che facevi prima, che ne so. No, beh, rifare una cosa che, di che cosa? Riguarda Cecchetto, si parla di, siccome non frega niente a nessuno in questo momento, al grande pubblico che ci ascolta, però se il Mediaset vuole fare le radio, vuole creare un polo radiofonico, e si pensa, almeno ho sentito dire, a Cecchetto come una sorta di direttore. Magari lo faresti di corsa. Vabbè, insomma, a parte che fa piacere, quando, perché se tutti pensano a me vuol dire che ho lasciato un bel ricordo, no? Quindi dico, magari mi fa piacere, è una voce che mi fa piacere, basta. Dunque c'è qualcosa? No, è una voce che mi fa piacere. Le voci sono sempre. Ma ti piacerebbe farlo? Cioè? Beh, insomma, fare la radio mi piace, chiaramente. È logico. C'è ancora spazio per fare ancora radio. Però vabbè, come hai detto tu, è una voce. Chissà. Una voce, e io posso rispondere, magari. Parenzo, sei morto? Sì. Sei morto o no? Lo ascoltavo, non ho da contrastare Cecchetto, è un buonista come me, quindi cosa gli devi fare? Ma non dire troppo buonista, non dire troppo. Che è troppo, ma non è vero, buonista. Il buonismo non esiste, è una cazzata tua e di e quattro salami, perché il buonismo non esiste. Volevo dirti questo, cioè quei quattro salami che ogni tanto pieni di rabbia telefonano, in realtà, e accusano me, come alle volte fai tu, o Cecchetto, di essere buonista, che è una parola talmente idiota che manco esiste. Cioè, non è buonismo, è avere delle posizioni diverse, qualcuno poteva dire di buonsenso, è un atteggiamento, ma non è neanche conciliante, perché alcune cose sono talmente banali da non essere neanche buone. Non c'entra uno quando ti attacca e dice sei un buonista, in realtà dice una cazzata, perché non ha altri argomenti per contrastare quel che uno sta dicendo, che è semplicemente alle volte buon senso, puro buon senso. Ma non hai finito con la tua Filippi, hai finito con la tua, ma è semplicemente il cattivismo. Io appoggio, non è buonismo, cose, ma non esiste il buonismo. Che vuol dire buonismo? Ma in questo libro lui è troppo buono con tutti, una cattiveria non gliel'ho tirata fuori, capito? capito. Ma cosa è cattiveria? Ma perché deve mandare a fare il culo a culo per no, forza? No, una cattiveria, perché sono sicuro che dentro, ognuno dentro di noi ha una cattiveria. Cioè, da dire, capito? Il mio compito è sempre quello di tirare fuori il peggio dalle persone. Guarda, siccome le pagine di questo libro, che poi sono anche tantissime, perché so, anch'io alla fine... Infatti ci ho messo tante. Cioè, sono tantissime. Allora io dico, se avessi dovuto parlare male di qualcuno, erano ancora di più le pagine. Sai che palle? Quindi di conseguenza il mio spazio, il mio tempo, le mie pagine le dedico a parlare bene delle persone che meritano. Vabbè, ho capito. Grazie, ciao Claudio. Ah, è finito tutto così. Io pensavo che andassi 24 se ore. Se vuoi continuare anche a commentare le cose, sto scherzando. Anzi, io ti ringrazio di avermi invitato. Verdini, ecco, un cattivo come Salvini, ti piace? Ecco, appunto. Ma Salvini è cattivo? Salvini sta cavalcando l'onda. Fa finta di essere cattivo. Sì, voglio dire, cioè, qui alla fine è un po' quello che succedeva tempo fa anche con il Partito Democratico. Appena vedi che c'è un'esigenza, ti attacchi a quella perché conti allora i voti. Allora è bravo. Perché conti i voti. Beh, insomma, sta facendo il suo lavoro. Cioè, però il suo non, lavoro. Ti tanto. La Lega non ti piace è tanto. È cinico. Beh, cinico. Insomma, quel tipo di espressioni non fa parte del mio linguaggio, no? Comunque, vabbè, ognuno. È proprio parenziano, anzi. No, Parenzo cecchettiano. Questo esatto. Verdini, ti piace Verdini? Ma non sa che è Verdini. Ma pare che sa che è Verdini. Ma non gli interessa dire, ma perché è ignorante? Giustamente non sa. A dire la verità, io so chi è Verdini perché l'ho visto. Certo, no, l'ho visto una volta in televisione, tutto il resto, e mi pare che porti 6 o 7 senatori. Bravo, 19 in verità. Quindi basta, finita la mia cultura su Verdini. Lo vedi, la gente normale, la gente che lavora, la gente che sta nella vita di tutti i giorni, dice: vabbè, questo qua è uno che porta 19 senatori al Partito Democratico, giusto? No, perché ho letto solo quello. Che c'è 5 processi, non lo sai. 4, no, ma perché io leggo solo quello, no? Ogni tanto fa. Bisogna convincere Verdini, è l'essenza delle cose, è sempre quella cosa lì, capito? Va bene, ho capito che è un portatore sano di senatori, no? Esatto. Però vedi, ce l'ha una cosa, ce l'ha la staffilata, portatore sano, non so se è sano di senatori, però secondo alcuni del PD è portatore infetto di senatori. Portatore basta. Ciao Claudio, ciao a tutti. Non vi abbandonerò mai. La Zanzara. Bergamo, vai Matteo. Oh, ciao David, ciao Giuseppe. Dimmi, ciao. Allora, per la serie L'inchiesta della Zanzara. Vai. Voi seguite i 7 comandamenti dell'ecorgasmo? No, francamente no. Quali sono i 7 comandamenti dell'ecorgasmo? Ho letto un articolo qualche giorno fa, è uscito. Dildo in legno per evitare disfunzioni ormonali. Come, che cosa è il legno? Scusa, che cosa è il legno? Dildo. Sì, ma il dildo in legno non si può, cioè il vibratore in legno è impossibile, cioè, come si fa il vibratore in legno? Cioè, è pericolosissimo, di solito sono di gomma, di plastica, di materiale di questo tipo qua, non ci può essere un dildo in legno. Comunque vabbè, ma esiste veramente il dildo in materiale ecosostenibile? Sembrerebbe di sì, anche i preservativi vegan. Sì, ma quello esiste, quello esiste. C'è un articolo qualche giorno fa su Dagospia su questa roba. Poi, secondo comandamento che dice, ha citato dall'articolo del Fatto Quotidiano che mi ha un po' incuriosito, quindi sarebbero i dildo senza ftalati che creano tumori. Dildo senza ftalati, liquidi incolori pieni di molecole chimiche, accusate da diversi rapporti medico-scientifici di disturbare il corretto funzionamento del sistema ormonale. Poi? Quindi anche di usarne di legno, appunto, e vetro. No, vabbè, ma ragazzi, non è possibile. Io non so chi degli ascoltatori possa usare. Ma viva la plastica! Viva la plastica, viva la gomma! Viva la plastica e la raccolta differenziata, soprattutto. Vabbè, appunto. Poi decide. Poi, quarto comandamento: ristorante biologico per evitare problemi nel rapporto sessuale. Poi? Areggiare per bene la stanza, perché altrimenti le vernici delle pareti e dei mobili possono causare problemi nei rapporti. Poi? Le trapunte, perché parecchi studi dicono che il prodotto chimico delle trapunte influenza la qualità dello sperma. Addirittura. È finita? È finita? No, c'è l'ultimo e poi qual è? Sesto e penultimo comandamento, la panna. La panna? Edulcoranti, sostituzione dello zucchero, che non aiutano di certo l'organismo dell'uomo ad avere erezioni. E dunque eliminare la panna? Eliminare la panna, anche se personalmente la panna a me non piace perché... No, io una volta, Parenzo, ho fatto, anche recentemente, non mi ricordo, tempo fa, cioè un annetto fa, una ragazza che è venuta a trovarmi a casa, anzi no, sono andati in un albergo, siamo andati in un albergo e si è presentata con una bottiglietta di panna. Vabbè, ti giuro, ho rischiato. No, che fragole, la volevo utilizzare sugli organi sessuali. Okay. Che io voleva che io utilizzassi sul suo organo sessuale e lei sul mio. Io sinceramente ti giuro, sai che ho rischiato la figuraccia, poi adesso non esageriamo. Cioè, non mi veniva. Non mi eccitavo. Cioè, non mi eccitavo. Sono problemi. Beh, ho capito, ma la panna, mettiamoci la panna. Mi sembrava di tornare ragazzino, una cosa che facevo a 15 anni. Sai quelle cose che hai a 15 anni, a 16 anni, che ti metti la panna sul. Tu non ti, sì, sei, certo, non ti sei mai fatto mettere la panna? Ma adesso questo non so se è di interesse per il pubblico. È di grande interesse, non ti preoccupare, di grande interesse. Hai mai utilizzato la panna nei giochi sessuali? Adesso lì per lì non mi ricordo, dovevi fare un attimo una verifica. È una cosa terribile la panna, terribile, terribile. Cioè, una cosa tremenda la panna addosso, è una cosa che ti inibisce in maniera spaventosa. Diciamo che ci sono problemi più grandi di questo. Vabbè, ma l'hai utilizzato o no? Domanda. Adesso, lì per lì veramente non mi ricordo. Non ti ricordi se hai utilizzato la panna? Sicuramente hai utilizzato il cioccolato, il miele, le hai utilizzate per queste cose o no? Ma... qualche volta nel gioco sessuale, non ti sto chiedendo i dettagli. Cioè, No, adesso sto pensando oggettivamente. No, manco questo hai fatto. Ma come hai scopato in vita tua? Ma fino adesso come hai scopato in vita tua? Cioè, hai fatto qualche posizione diversa da quella normale oppure no? No, forse l'ho fatto, ma anche molto di più di quel che tu descrivi. Però forse non lo dico alla radio. Non ecco. Lo dici, non dici se hai utilizzato. Chiedo scusa se il politicamente corretto. Non dici se hai utilizzato. No, non nemmeno mia, non, se... è, non appartiene al mio stile, ma chiedo scusa però. Matteo, dai, Matteo. Chiedo Matteo, scusa al pubblico. Matteo, però. Matteo. Io Matteo. Salutandovi vi dico, io ho usato la panna, ho usato la Nutella, non ho usato il peperoncino e quindi che devo dire, siete bravi, ragazzi, continuate così. Va bene, dai. Voi ciao, seguite i sette comandamenti delle corgate. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Parla di figa, per favore. Live and easy, live and free. Aurelio, Reggio Calabria, vai. Sì, Giuseppe, ciao, buonasera. Ciao, io volevo dire che oggi su Sky si parlava delle 5 giornate di sospensione verdiniani. Sì, non solo per, su Sky, dappertutto, comunque. Dappertutto per i gesti sessisti, chiamati sessisti perché fatti a una donna, perché adesso tutti i gesti fatti dall'uomo alla donna sono sessisti e quelli tutti, fatti dalla donna. Quelli fatti dalla donna, ma in ogni caso mi sembrano delle gran cazzate. Che cioè, se uno fa il gesto dell'ombrello, non verrà mai considerato sessista, no? No, anche qui gesto... c'è una logica nelle cose, non è buonismo. Gesti... Se uno fa il dito medio, non è sessismo. Se uno fa altri gesti, sono chiaramente sessisti. No, perché è internazionale quel gesto del dito medio che si fa quando uno ti supera da destra. Allora, il sessismo con i gesti è un'altra cosa. Con i gesti fatti aspetta su, forza. Il sessismo è tutto. Un'altra cosa, esatto. Sono d'accordo. I gesti fatti, i gesti fatti dall'onorevole Barani, dal senatore Barani e dal senatore, come si chiama, Danna, non hanno nulla a che fare con il sessismo. È una cazzata spaventosa. Stiamo ascoltando da giorni puttanate inaudite su questa roba qua. Esatto, non c'entra niente il sessismo, non c'entra niente la considerazione delle donne, non c'entra nulla di nulla. Quei gesti lì si fanno agli uomini come si fanno alle donne. Le frasi sessiste o i gesti sessisti sono un'altra cosa, non c'entrano niente. Non è che se tu ti rivolgi male ad una donna è sessismo, ti rivolgi male ad una persona, punto. Dipende, no? Cioè ci sono alcune cose. Ma non di quello stiamo parlando, però non stiamo parlando di un'altra cosa. E io di quello sto parlando, infatti. Per te c'è sessismo, perché vai nel politico di corretto. Ma non è questione del politicamente corretto. Puoi fare il gesto dell'ombrello, non c'entra nulla. Ma che c'entra il gesto dell'ombrello? Stiamo parlando di un'altra cosa. Se tu fai il gesto dell'ombrello, non è qualificabile. Cioè, se tu mimi un pompino è un gesto sessista. Quello è un gesto sessista. Quella cosa che tu hai evocato poco fa è chiaramente. Fammi un paio, guarda che non è strano dire pompino, lo dicono tutti poi la parola pompino, lo puoi anche dire. Si è capito, l'hai già detto una volta, basta uno che lo dica, va bene. Sessismo, anche queste parole dette sul Rai 24 può essere un'accusa di sessismo. La parola pompino è riferito. Dai, su, ragazzi, ma veramente incredibile. Cioè, che possa essere un gesto volgare, un gesto come dire nei confronti di una senatrice o di un senatore uguale. Questo non c'è dubbio, quello è l'aula a giudicare, per carità, Grasso, le sospensioni, la politica, eccetera. Ma che questo qua sia sessismo, cioè una considerazione negativa di una donna, questo perché è. Perché proprio quel gesto era rivolto a una donna, capito? Ma sarebbe stata la stessa cosa, forse, un uomo. Se fosse questi stato. Come alcune parole. Pazzesca, no, è chiaro che ci sarebbe stato il caso comunque, ma non a questo livello, non forse. Non dobbiamo fare i bacchettoni come oggi in televisione. Ma non c'entra niente i bacchettoni, ma chi se ne frega? Che criticava di tutto e di più. Questi guarda, possono essere definiti porno senatori, quello sì è divertente, ma il sessismo non c'entra nulla, niente, zero, perché di queste frasi, di questi gesti è pieno il Parlamento. Ripeto, se secondo me avesse fatto il gesto dell'ombrello, ad esempio, ma quindi, cioè, ma chiaro, non l'ha fatto. Dunque, stiamo parlando di un'altra cosa. Beh, siccome il discorso è più ampio, no? Cioè, se si fosse fatto quello di cui si dovrebbe interessare il Parlamento, è che tutte queste offese così chiamate dovrebbero essere depenalizzate e dovrebbero essere trattate con un sorriso e scherzarci un po' su, perché sono delle puttanate enormi. Ma anche, anche perché pare, non è dimostrato, che la senatrice Lezzi abbia fatto anche lei dei gesti. Allora, quando una senatrice o un senatore fa dei gesti che non sono ripresi, oppure no, quando fa dei gesti indegni, loro sono indegni, no, capisci? Ma che ci mancherebbe altro, certo che viene. Ma che gesto avrebbe fatto la senatrice? Lo stesso gesto, dice Danna, lo stesso gesto. Non siamo dei bacchettoni, li facciamo tutti, ma sono cose normali, sono la crema, il pepe della vita. Possono anche essere dei gesti volgari, e un'aula del Parlamento ha tutto il diritto di giudicare volgare o non volgare una cosa, non c'è dubbio. Chi se ne frega, alla fine 5 giorni di sospensione, 9 giorni di sospensione, tanto questi hanno più pubblicità da questa cosa che in tutta la loro vita. La volgarità deve essere depennata completamente, deve essere depenalizzata completamente. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Amico mio, ma non sta dicendo delle cose metaforiche, non sta dicendo. Cioè, non doveva neanche essere sospeso, questo sta dicendo. No, lui sta dicendo una. Non doveva neanche essere sospeso. Ma guardi che sarebbe stato sospeso anche se avesse fatto il gesto dell'ombrello, quello che si mangiò la mortazza, il signor ridicola sospensione, ridicola sospensione. Quelli che fece la goliardia deve entrare in Senato, la goliardia deve entrare in Senato. Il Senato non è la radio, è un'altra roba. Ogni cosa al suo contesto. Con questi bacchettoni che criticano tutto, non è questione di bacchettoni. Fanno di questo e di più. No, sono dei bacchettoni perché vanno. C'entra il luogo in cui avvengono delle cose, no? Cioè, mi pare talmente naturale una cosa simile. Cioè, va bene, Maxi, provincia di Milano. Maxi, vai. Ciao ragazzi, ciao. Dimmi, a tutti. Dimmi. Allora, io volevo, mi ricollego a un discorso che avete fatto in apertura sul fatto che sono stati pagati 11 milioni di euro per liberare le due ragazze. Sarebbero stati pagati. Secondo un tribunale islamico. Secondo il tribunale, va bene. Però quello che mi scandalizza è il fatto che nessuno rompe i coglioni sul fatto che per i Maros stiamo spendendo una valanga di soldi per burocrazia. Beh, in giusto. Accordi commerciali. Io, infatti, esattamente è giusto. Vabbè, allora, che si faccia. Allora? E allora nessuno rompe il cazzo su questa roba qua. Perché ma io ho detto che è giusto salvare la vita ai Maros. Infatti, ma io vorrei. Vorrei far presente che per i Maros stiamo spendendo una valanga di soldi, però la destra, quelli di destra, nessuno rompe il cazzo per sta roba qua. Rompono il cazzo perché queste due ragazze di sinistra sono andate sbagliando. Di sinistra. Fermo. Sì. Pronto? Sì. Don Flame? Sì, chi? Sì, no. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Come? Sono Cruciani, come sta? Cruciani, poi. Sì, come sta? Beh, ha preso una bella batosta, l'hanno sospesa, hanno revocato gli incarichi, che è successo? Non ho capito. Hanno revocato gli incarichi? Ah, non so niente, non fa niente, no, me mi interessa anche poco. Beh, come no, Don Gino? Lei è Don Gino? Sì, perché? No, dico, hanno revocato gli incarichi dopo le cose che ha detto sulla pedofilia? No, a lei non è stato detto ancora niente. Beh, ho capito che non le è stato detto avrà niente. Avrà letto però, avrà visto. Su... No, dico, avrà letto quello che è successo oggi dopo che lei no, ha detto... No, non ho letto niente, no. Scusi, ma lei che cosa ha detto sulla pedofilia? Che, Ma io non ho detto niente. Che la colpa è dei bimbi che cercano affetto. Prego? Lei ha detto che la colpa è anche dei bambini che cercano affetto. Colpa dei bambini che cercano affetto. Mamma, lasci perdere. Ma scusi... Arrivederci, saluti. No, aspetti, Don Gino... Don Gino? Don Gino? Pronto? Don Gino? I'm not content to be with you in the daytime. Riproviamo ragazzi, è Don Gino Fly, mi avete sentito? Non so niente, non voglio sentire ubriaco, niente. Proprio. Mi sembrava mezzo rincoglionito, mezzo ubriaco, sì. Mezzo no, ubriaco no, ma semplicemente no, rincoglionito. Un po', sì. Oh, nell'intervista che abbiamo sentito prima non era per niente rincoglionito. No, era lucidissimo. Per però cui... la voce sembra un po' impastata. Comunque. Sì, Don Gino, è lui, era lui o non è lui? Sì, è lui, ma per certo forza. Che è lui, hai detto di sì. No, sì, ma sai, uno è rincoglionito, può dire pure di sì, e non è così poi. Non rispondo alle chiamate non email. No, Don Gino, scusi un attimo. Don Gino? Don Gino? Vabbè, ha ragione. Lucidità di dire, sarà rincoglionito, la lucidità di dire non rispondo alle chiamate anonime. Perché poi gli famo un'altra mai, telefonatina. Sai mai che magari è un bambino. Arriva un'altra telefonata, eh. Andrea da Rieti, dai! Pronto? Sì, Andrea, dimmi! Dimmi, Andrea! Ah, ma io sono da Genova, sono! Sì, è uguale, Andrea da Rieti, Andrea, ah, aspetta, bene, aspetta, okay, aspetta, sì, aspetta, no. Aspetta, aspetta! Don Gino? Sì? Don Gino? Sì. Salve, come sta? Come sta? Sono un parrocchiano! Chi è che telefona? Pronto? Don che Gino? Telefona? Buonasera! Pronto? Sì, chi ha il telefono? Sì, sono un parrocchiano. Pronto? Don Gino? Don Gino? Don Gino Flaim. C'era Andrea da Genova, dai. Sì, ciao Cruciani, senti, volevo dirgli a Don Gino che non capisce proprio un bevino, perché se c'è una malattia forse quella è proprio la pedofilia, non l'omosessualità. Ecco, prima di tutto. Secondo luogo, sul fatto di Air France, direi che insomma i lavoratori hanno anche le loro ragioni, no? Avremmo dovuto farlo noi quando hanno preso Alitalia con la Nino, i nostri grandissimi imprenditori. Che ragazzi, poi non diciamo cazzate, dai. Comunque uno non se la se proprio uno no, ha la rabbia, non è, se proprio non uno aiuta, però la gente che sta su deve capire che noi siamo sì, anche un po' esagerati. Io lo ripeto, se uno ha la rabbia dentro perché è stato licenziato e vuole andare e vuole prendersela con qualcuno, allora uno non se la prende con un dirigente, con un capo del personale che non c'entra una stramazza, perché quello esegue degli ordini, esegue semplicemente degli ordini. Ah, è inutile, quelli, no? Ho capito, è il branco che insegue uno incolpevole, sì, uno incolpevole. Devono avere il coraggio, allora devono avere il coraggio di superare le scorte, i servizi d'ordine e andare a prendere, se proprio hanno la rabbia dentro e se hanno il coraggio di farlo, per me è una cazzata enorme, è normale che a un certo punto se uno assume delle persone in più e l'azienda va al mare, che si fa? Si licenzia, ma mi pare una cosa normale, per cui di che stiamo parlando? Ma sono danni collaterali di qualsiasi impresa, nel mondo, succede così, il mondo è questo, ragazzi, esistono le imprese che vanno bene, esistono le imprese che vanno male, esistono i licenziamenti, un mondo migliore non è stato ancora scoperto. Esistono scelte sbagliate fatte da anche scelte sbagliate, non c'è dubbio, ma quello fa parte del capitalismo, fa parte dell'imprenditoria, del mondo delle imprese, è così. Ci sono manager che fanno scelte giuste, manager che fanno scelte sbagliate, gente che viene licenziata, gente che viene cacciata. Se uno ha il coraggio, se uno ha la rabbia dentro, va a prendere non il capo del personale, va a prendere l'amministratore delegato, il presidente, e lo impicca. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La Zanzara. Voi seguite le sette comandamenti dell'ecorgasmo? Grande richiesta, ragazzi, ieri mi ha fermato un sacco di gente, mi ha fermato veramente un sacco di gente, tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Pino da Roma. Allora, andiamo a, in provincia di Roma, Pino, vai. Pino? Pronto? Dimmi, Pino, dimmi. Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Niente, io stavo sentendo Sgarbi e devo dire che in parte sono d'accordo con lui. Anche se secondo me quando uno fa una scelta di vita di diventare un prete, tutto il contorno dovrebbe rimanere al di fuori. Poi? Che cazzo stiamo a dire in prete omosessuale, bisessuale, transessuale? Un prete è un prete, se fai una scelta la fai in base a quello che ha deciso di fare. Io ho 46 anni, sì, e credo che mi sto rendendo conto di essere bisessuale. E come te ne rendi conto? Come? Me ne rendo conto perché... Cioè, ti piace il cazzo? Più... No, non è che mi piace il cazzo, è che più passa il tempo e più la voglia diventa tanta, quindi te si fa una confusione in testa. Voglia di che? Tu... Scusami, voglia, voglia di che? Scopare, voglia di scopare, di scoperesti chiunque, pure a te, che c'entra con esempio, la bisogna? No, vabbè, sto scherzando, Crucia, dai. Nel senso che non c'hai più un'idea precisa in testa di quello che vuoi. Per esempio, 5 anni fa vedevi un trans, non te pensava manco per la testa, invece mo ci andresti con tutte le scarpe, capisci che voglio dire? Per esempio, io mi masturbo più adesso che quando avevo 14 anni. È una comunicazione interessante da fare. Questo invece, anche questo è un tema fondamentale. Dire che me ne frega niente. L'altra notte ho dovuto litigare con mia moglie perché mi ha beccato dentro al bagno che mi stava a fare una pippa. Cioè, non è che a te tua moglie non ti piace più, a te tua moglie ti piace ancora, ma è che con l'avanzare dell'età ti mettono tante di quelle fantasie e cose in testa che a quel punto non so vergogna a dirlo, godi più a fatte una pippa che a fatte una pelle con tua moglie. Beh, diciamo che... la traduzione dal romanesco, è abbastanza esplicita. È chiaro che noi fondamentalmente siamo diversi, cioè cazzo dritto non conosce vergogna, questa è pure un'altra, come dire, un altro modo di dire, una conclusione però, che in un certo qual modo pure hai capito, quindi tu arrivi a un certo punto che mia moglie se la vedi è una gran figa, non, per, non carità, molto, per carità, per carità, per carità, tipi da Zanzara. Sai, Parenzo, che stavo cercando delle persone a Scafati, no? Per quella vicenda di quei due nonnini, la donna salernitana di 84 anni che ha chiesto il divorzio dal marito 88enne, non mi soddisfa più, lo facciamo solo due volte al mese, è troppo poco, devo usare il Viagra, eccetera eccetera. Il nonnino si è rifiutato. Si è saputo che la signora, la nonna di 88 anni, di 84 anni, al terzo marito. Però, li ha uccisi gli altri? Che ha fatto? Che fine ha fatto? Non lo so, magari si è semplicemente divorziato, non lo so, questo qua non è noto ancora, non è noto. Allora cercavo così sull'elenco delle fuori, sulle pagine bianche, qualche nome a Scafati, perché ci sono solamente le iniziali, no? E ho messo a un certo punto, non so perché, merda, hai visto mai che ne so, che qualcuno si chiama merda di cognome a Scafati, no? È uscito un indirizzo di Napoli, ti giuro, di Napoli, sulle pagine bianche, controllate anche voi, Salesiani pezzi di merda, no? Ti giuro, non è una cosa inventata. Il cognome? No, un indirizzo a Napoli con un numero di cellulare, Salesiani pezzi di merda, andate a controllare, fate pagine bianche. Fai pagine bianche, apri, apri e dopo all'interno vai, metti dentro la ricerca, metti adesso no, merda, metti dentro merda Scafati, come ho fatto io, merda come cognome, Scafati come indirizzo. Scafati, fatelo tutti anche in macchina, lasciando il volante. Beh, questo è pericoloso, lasciando il macchina in volante. Sì. Volante là. Esce fuori Salesiani pezzi di merda, via Raffaele Morgan 74 80 129 Napoli. Pazzesco. Cellulare 324 eccetera eccetera, che faremo tra poco, 324 79 84 eccetera eccetera. No, ma ragazzi, è sull'elenco, non è che un cellulare è arrivato. Dunque si può dire anche Salesiani pezzi di merda. There's a backseat lover that's always undercover, and I talk to my daddy, say, said you ain't seen nothing till you're down on a muffin, and it's sure to be changing ways. The big cheerleader, that's a real big leader, a fly like a reminisce, with the best thing love it, but your sister ain't cousin, and it started with a little kiss like this. Allora andiamo a Bergamo, Marco, vai, Marco. Pronto? Dimmi. Pronto? Ciao, volevo intervenire sul fatto del prete pedofilo. Dimmi. Secondo me il prete pedofilo è proprio la rappresentazione della violenza più totale, ok? Secondo me. Vabbè, amico mio, ma non è che scopri la... macellai. Cacciatori fanno parte della stessa specie. No, okay? Ma che cosa c'entra perché i cacciatori? C'è un nesso. Scusa, che c'entra, il cacciatore? Ve lo spiego. No, non c'è nessuna spiegazione a questa minchiata che hai detto. La razza umana è superiore a tutti gli animali. Ma se dite questo, vorrebbe dire che voi preferireste portare in vita un essere umano piuttosto di un animale morto, ok? Io piuttosto di portare in vita un pedofilo, porterei in vita il mio gatto, ok? Piuttosto di ma cosa c'entra? Ma questa è una puttanata. Utilizzare questa cosa per sostenere che è meglio un animale di un pedofilo è una cazzata spaventosa. E invece è una follia. Dai. Una follia totale. Il pedofilo non è un essere umano. Ma anche il pedofilo è una bestia, ma ha detto, perché non so come altro definirlo, è una bestia che usa violenza nei confronti dei bambini, punto e basta. Preferireste ma salvare. Non c'è da preferire salvare chi? Un animale oppure un pedofilo, rispondi. Nessuno dei due, ma che vuol dire? Salvare, come nessuno dei due? Che vuol dire salvare un animale o un pedofilo? Cioè, non è che c'è. Non so, c'è un incendio, ok? E a che tiri fuori? Il pedofilo o il gatto? Sapendo che quello è un pedofilo. Ma mi non lo so, follia è quesito in sé. Dimmelo, è quello, tirerebbe fuori. È una cazzata, dai. Sei un coglione. Invece, voi sostenete che la vita umana è superiore di tutto, superiore di niente, perché siamo quelli che distruggono il mondo. Le api sono più importanti dell'uomo, capito? Marco, tu sei un pazzo scatenato. Le api sono importanti, d'accordo, ma non c'entra niente. Sarebbe 100.000 volte meglio, capito? No, ma gli umani sono capaci delle peggiori nefandezze, come peraltro gli animali. Come gli animali, non è che gli animali sono lì, non è che sono lì impuniti, non sono innocenti e basta. Gli animali sono essenziali per il pianeta, sei d'accordo tu? Ma dipende, l'uomo si è sempre ispirato agli animali. Okay, e allora invece l'uomo non è essenziale per il pianeta? Invece l'uomo no. Se da domani noi ci estinguessimo, si estinguerebbe anche il pianeta, non ti preoccupare. Tutta la vita sulla Terra risorgerebbe. Comunque, guarda, non voglio sfuggire alla tua provocazione sul pedofilo. Cioè, se c'è un incendio e c'è un gatto, io so che là c'è un pedofilo, che cosa faccio? È una bella provocazione, per carità, non è male come provocazione. Beh, diciamo la verità, cerco di salvare tutte e due. Dopodiché il pedofilo lo sbatto in galera e chiudo e butto la chiave. Se muore bruciato, non, se invece muore bruciato, non mi metto a piangere, certamente. Idem anch'io. Ma se devo scegliere, è evidente che preferisco l'innocenza del gatto al pedofilo, non c'è dubbio. Cioè, preferisco l'innocenza del gatto, ma non è una scelta. La Chiesa salverebbe il pedofilo. Non lo so, se come un sacco di persone che ritengono che l'essere umano è superiore in qualsiasi caso alla vita animale. Invece gli animali sono innocenti perché sono come bambini. Qualcuno ha detto che se ci fosse il paradiso gli animali si andrebbero al volo, mica gli esseri umani. Marco, sì. Ripeto, tra la scelta tra un pedofilo e un animale è effettivamente complicata. Se io so che lì c'è un pedofilo che ha stuprato dei bambini, che ha utilizzato violenza nei confronti dei bambini, che faccio? Lo salvo lo stesso? È un caso al limite, lo capisco. Non lo so, francamente non lo so. Credo che lo salverei come istinto. Dopodiché lo consegnerei alle autorità per sbatterlo in galera. Ma tra lui e un gatto, forse preferisco l'innocenza del gatto alla brutalità di un pedofilo. Su questo non c'è dubbio. Però è una cazzata, capito? Perché non è che gli animali... Per correggere, per dire che non puoi dire in assoluto che l'essere umano è sopra... Quello sì, lo posso dire, assolutamente, assolutamente sì. Ma che c'entra? Quelli sono casi limite, dai Marco, su, sono altri casi. Alessio da Verona, ciao, ciao, Alessio, Verona. Alessio? Buonasera. Dimmi, dai. Ciao. Sono un tassista, sto lavorando, volevo solo intervenire. Ciao, sei un grande, grande. Sì. Salutiamo tutti i tassisti di Verona. Viva Verona, viva i tassisti, vai. Abbassa allora, la radio però, se no si sente un cazzo lì. Dai Alessio, posso andare? Sì. Abbassa la radio, sì. L'abbasso, ecco. Amico mio, sennò... meglio, molto meglio, sì. Dai. Voglio tornare solo su Padre Fly, vabbè, quello lì va arrestato e vabbè, non c'è niente. Arrestato, no, adesso parlare, solo... esiste l'istigazione alla pedofilia. Può darsi pure che debba essere arrestato. Esiste l'istigazione alla pedofilia. Fatto qualcuno, cioè quello lì. Tu dici un pedofilo lui stesso, La copertura forse di qualcuno, forse ha coperto qualcuno. Che ne sappiamo? Sì, forse va arrestato, sì, forse va arrestato. Volevo parlare, ha ragione. Di voi due. Dimmi. Di voi. È incredibile come, nonostante probabilmente, ma non vi conosco così a fondo, non abbiate fatto un cazzo in vista vostra. Cruciani capisca chi lavora e Parenzo no proprio di chi lavora. Ma Parenzo, vedi che io ho lavorato tutta la vita da quando avevo 26 anni. Ma non ho capito che vuoi dire questa con questo, Alessio, dimmi che cosa vuol dire questa cosa. Non capisci cosa... No, a che ti riferisci? A cosa ti riferisci? Cioè io capisco la gente che lavora mentre Parenzo non capisce. Uno dice che 12 milioni sono serviti per salvare due vite umane. Uno che probabilmente i soldi ce li ha facili e non capisce il valore dei soldi. Ma guardi che sono anche miei quei soldi, essendo cittadino di questo stato e contribuente. A te interessa in ogni caso salvare delle vite umane. Io ho detto d'accordo. Che non c'entra niente col lavoro, c'entra col fatto che tra i compiti dello Stato c'è quello di tutelare la vita dei propri cittadini. Non siamo gli unici, tanti altri paesi civili al mondo salvano la vita delle persone. Non c'entra niente, ci fa una scelta qualche volta, dipende dove vanno quei soldi, no? Dipende dove vanno quei soldi. Cioè, ma non male, c'è sempre 12 milioni e adesso non mi vengono perché io vi ascolto tutte le sere e avrei mille esempi da fare, adesso non me ne viene neanche uno, però da come agite, da come parlate tutto, io capisco che Cruciani ha un'ottica, Parenzo non state mai d'accordo praticamente per qualsiasi argomento, allora? Insomma, bene o male, ecco, volevo solo dire questo. Vabbè, ciao Alessio, ciao ciao ciao ciao ciao. E concludiamo con l'ultima cazzata della Moretti. L'ultima cazzata della Moretti, Alessandra Moretti, che ritorna sulla questione del look. Il look castigato. Sentite, l'ultima cazzata. Parlai di una sorta di divisa, di, come dire, no, di questo look più castigato, forse maggiormente maschile, ho ritenuto che invece probabilmente le donne non devono mai, ecco, cambiare la propria personalità, devono cercare di rimanere se stesse con tutti i limiti e i difetti, cercando insomma di poi di parlare per quello che fanno davvero e non essere giudicate sempre per quello che appaiono. Parlai di una sorta di divisa, di, come dire, no, di questo look più castigato, forse maggiormente maschile, ho ritenuto che invece probabilmente le donne non devono mai, ecco, cambiare la propria personalità, devono cercare di rimanere se stesse con tutti i limiti e i difetti, cercando insomma di poi di parlare per quello che fanno davvero e non essere giudicate sempre per quello che appaiono. A domani 18:30, ciao. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.